Smart City, la città intelligente. Più che un mezzo di trasporto, uno stile di vita. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Parliamo delle cosiddette folding bicycle, ovvero quelle biciclette pieghevoli che si riducono alle dimensioni di una valigia e che quindi ci si può portare dietro un po' ovunque. Complemento perfetto, di conseguenza, ai mezzi pubblici. Ma quali sono le motivazioni che portano all'adozione di questo mezzo e qual è l'utente tipo? Ne ho parlato con Will Butler Adams, direttore marketing di Brompton, che è uno dei leader di mercato di questo settore. Sentiamo com'è andata. Come cambia il modo di muoversi in città con una folding bicycle, con una di queste biciclette pieghevoli? Insomma, qual è il cambiamento più importante per l'utente? Il cambiamento è legato alla libertà. La gente che vive in città è frustrata dal traffico cittadino e di certo non si diverte ad essere inghiottita sottoterra ed essere sballottata dalla metropolitana. Allo stesso tempo sono persone che vogliono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. L'innovazione della folding bicycle è proprio di intendere un ambiente urbano flessibile che permetta una migliore qualità della vita. È un fenomeno in crescita quello della folding bicycle? Vista in prospettiva, 10 anni fa costruivamo 5.000 biciclette, quest'anno 45.000. Da quando abbiamo avviato la produzione nel 1988, sono state realizzate 350.000 biciclette. E così, da qual è il profilo dell'utente tipo di queste biciclette rispetto, diciamo così, all'utilizzatore tradizionale? Ci sono delle differenze? L'aspetto interessante di questa tecnologia è proprio quello di non interessare una specifica tipologia d'utente. Non dipende dall'essere giovane o vecchio, uomo o donna. L'utilizzo è determinato dall'ambiente, da dove vivi. Se vivi in un piccolo appartamento e ti muovi per andare al lavoro in bicicletta, dove la metti? Se devi prendere al volo il treno, se vuoi andare al ristorante, ti porti dietro la tua bicicletta e la lasci dove di solito appoggi la giacca. Queste situazioni coinvolgono giovani, architetti, designer, avvocati. Quindi l'opportunità e il successo delle folding bicycle nasce dalla vita in città in continua crescita. In tutto il mondo, in Italia come in Cina, la popolazione sta migrando verso città sempre più congestionate. Costruire infrastrutture come tunnel e aumentare il traffico di automobili non può essere la soluzione. La soluzione deve essere più flessibile e la folding bicycle lo è. Insomma, quindi lei ritiene che questo mezzo di trasporto si diffonderà al crescere, diciamo, della popolazione urbana e anche al crescere dell'utilizzo dei mezzi di trasporto? È qui il punto? È molto più di questo. Il problema vero che stanno affrontando tutte le economie occidentali è il costo della salute. Infatti si registra un incremento delle malattie e di conseguenza un incremento degli investimenti pubblici per una popolazione sempre più sovrappeso e malata. Oggi quello che può prevenire tutto questo è l'esercizio fisico. 20 minuti al giorno riducono il rischio di essere ricoverati in ospedale dal 50 al 60%. 20 minuti al giorno riducono il rischio di essere ricoverati in ospedale dal 50 al 60%. Quindi, se riusciamo a vedere dove sta il problema, guardando alle città, il modo migliore di affrontare questo problema dei costi sempre più insostenibili è pedalare. È questo il motivo per cui molti governi delle economie occidentali stanno investendo milioni di dollari in infrastrutture ciclistiche, come New York, che sta realizzando piste ciclabili e sistemi integrati auto-bicicletta, non principalmente per questioni ambientali, ma per offrire una migliore salute ai propri cittadini. In Olanda, negli anni 70, l'8% della popolazione utilizzava la bici. Il governo prese una decisione strategica e decise che il trasporto su bicicletta dovesse diventare una priorità. Oggi la percentuale è salita al 30%. Se così faranno anche altri governi, vedremo sempre più persone in tutto il mondo riprendere in mano la bicicletta. E questo farà bene alle città e alla salute della gente. Thank you, Will Butler Adams. My pleasure. Ci fermiamo qui, ma domani parleremo ancora di biciclette pieghevoli, in particolare di un nuovo tipo di bicicletta pieghevole a pedalata assistita, davvero rivoluzionario, progettato in Italia. A domani dunque, a voi tutti buona serata.